attacchini, che gli attacchi al computer sono elementari da programmare, quella è tutta roba con parametri particolari eccetera. Ne ho visto uno l'altro giorno così bello, ma così bello, era anni 70, forse inizio 80, di tipo militare, ovviamente verde, però era di quelli che hanno già il display a cristalli liquidi tipo verdolino e la tastiera, mamma mia quanto era bello, non so che frequenze facesse, però era spettacolare vedersi. Sì, ci sono, di tutti i tipi, ecco perché non l'ho trovato, non c'era, era ovvio, ah, che disperazione, guarda, a volte è un casino proprio. Ma quelli lì, quando li ordini, quando li prendi, non ti danno una specie di manuale di servizio, uso e manutenzione, che più che un manuale è un libro, no? Sì, certamente sì, però non c'entra niente, cioè non c'entra niente nel senso che la programmazione te la devi fare tu, e mica te l'hanno già programmato l'apparecchio, quindi ci devi mettere i canali, devi stare attento che non ci sia il minimo errore, tutti i parametri di canale, e non è così la questione, che prendi e fai, anche quando trovi qualche file già preprogrammato, bisogna vedere se va bene per la radio, insomma bisogna... Ci sono tante cose, poi se ci aggiungi anche che certi stanno sempre a cambiare, quindi quello che hai fatto ieri non va più bene oggi, e quindi è un macello. Certo, vediamo se è rientrato Claudio, gli volevo chiedere qualcosa di quell'antenna lì, ero curioso, una verticale multibanda, sapere, ho sentito la marca PKV, volevo cercare il modello. Sapere se era trappolata, se aveva radiali filari, radiali trappolati, un po' di particolari, mi ero curioso. E magari la sta provando, adesso nelle varie frequenze, senz'altro. Cava. Vabbè, riprendi un attimino che devo fare la cena a Simona. Adesso mi tocca fargliela io, ieri ha preso la stampata, preso. Ehi Antone, vai, fai quello che devi fare. Adesso vedo di farmi un caffè, che ne so. Comunque Gianfra, adesso cambiare scuola, siamo rientrati nella normalità per quanto riguarda gli orari. Colazione, pranzo e cena, ci sono state qua delle priorità familiari e quindi infatti io non ho fame, cioè quando c'è lo fanno dire l'ora di pranzo io fame non ne ho, sono ancora abituato al fuso orario East Coast sempre. Però non era un orario certo normale, quindi non andava bene sicuramente, dai. Poi anche i bioritmi sono tutti sconvolati, adesso ti devi rimettere in sesto, ed è così, vediamo se mi posso evitare a mandare, sperando di non fare casotto, così, beh, dove è finita, salva, non si sa mai. Voglio sempre salvare per ogni operazione, perché se no, se ti perdi tutto sei rovinato. Che software si usa lì? Cosa si può usare? Una cosa sua dedicata o CIRP? Vabbè, CIRP non credo, CIRP va bene per molti apparecchi, ma quelli sono una cosa a sé particolare. No, per quelli professionali hanno il loro programma di programmazione, alcuni sono gratuiti, alcuni invece sono a pagamento, ma Motorola di non metterlo a pagamento, infatti no, io non mi prendo di Motorola, perché anche la polvere che si deposita col pennellino ti conviene conservarla, perché magari domani vale fare soldi. L'Itera invece lo dà gratuito, il software di programmazione, almeno quello. Non è gratuito, mi faccio che cosa, anche se proprio per costruire il programmatore, che non è altro che il cavetto, no? Quello lo paghi. Le altre radio poi di norma sono gratuiti, quindi i teleprogrammi hanno i loro programmi da scaricare. Programmi, certo devi capire a prescindere dal gratuito o dal pagamento o tutti i termini che sono sempre in inglese, quindi capire esattamente a cosa serve una funzione e a cosa non serve, se no guai. Scusa Gianfranco, che è qua. Ho toccato dietro, non mi faceva contatto l'alimentazione e mi si è spento tutto. Così imparo a mettere le banane a cascata, no? Quelle che hanno il foro laterale. Sì, comunque adesso è corretto l'errore. Non si ferma più. Si fermava su un canale portante e non si capiva il perché. Quindi abbiamo fatto l'esclusione che va fatta tramite programmatore, come al solito. Capito? E così, ormai sono tutti con le memorie da programmare. Ma anche questo, anche il presidente dietro c'ha la presa, no? Anche se essendo canale comunque i nostri sono fissi, c'è poco da programmare. Perché quel presidente l'ha presa di programmazione? Aspetta, ma mi sono perso qualcosa, boh. No, vabbè, quello è il modello ammiraglio. Da me hai cuffie, PA e Vox, c'è il microfonino jack piccolo per il Vox, però prese di nessun tipo. Perché a volte ce l'ha anche interna, questo credo che ci abbia lo spinotto dietro, cioè c'è il jack dietro da mettere, ma non ci vedo cosa potresti programmare, ecco. Forse le memorie, la memoria ce l'ha questa. Sì, non so che mi sai, memorie, vabbè c'è anche il coso, il CTS, memorie, c'è lo scanner, non so se c'è le memorie, vabbè c'è la voce, quindi ce l'ha di sicuro, ce l'ha ma io non le vedo. Vabbè, nel mio c'era tipo M1, M2, M3, M4, oppure lì le richiami. Sai cos'è? Allora, quello è un bello apparato, però ha troppi tasti, forme diverse, messe anche in forme, forme diverse e posizioni diverse, tutto un... mentre il McKinley è più ordinato, capito? 4 tasti in linea, 4-5, capito cosa mi piace al McKinley, più ordinato, l'altro è un po' più caotico alla vista, dai. Bene, a 12, di cui ne utilizzi ben pochi, perché c'è anche quello di split, eccetera. Sì, le memorie adesso le ho trovate, ce le. È così. Marco, ti devo lasciare, mi stanno chiamando. Ci sentiamo eventualmente più tardi, vabbè, sono già le 7:30, anche se qua c'è ancora il sole. Salutami Antonello e ti ciu. Buona serata. Ciao Gianfra, e qua devo risolvere che mi sta mancando l'alimentazione, ho capito che devi pranzare, credo. Ci sentiamo, ciao, buona serata, ciao. Condor, mi copi? Marco Condor o Condor Marco? Sento Condor, se mi copi. Marco Condor, mi copi? Attento Marco. Chi chiama avanti? Buonasera, sicuramente sto uscendo un po' a merda, sono in macchina, Barracuda. Allora, buonasera a chi è entrato, però qua praticamente sei in mezzo alla propagazione, non riesco a capire nemmeno il nome. Chi è avanti? Vediamo se passi meglio. Capa, scusami, Barracuda. Oh, Antonello, e beh, e dove sei? Di che zona sei? Buonasera, dopo tanto. Beh, all'entrata di Sassari, per fare una piccola commissione, ma c'è una radiolina un po' così in macchina, dunque. L'ho accesa, vi ho sentito, anzi ti ho sentito, e sì che salutiamo a Marco. Gli altri non ci sono riuscito. Ciao Antoni, dopo tanto appunto, e attività dei miei ex stai facendo, tipo, tu avevi, ero rimasto che avevi con l'antenna V, vero? Sì, sempre quella, ma già sta funzionando benissimo, sì, no, ultimamente sto facendo un po' di radioascolto, già ci sono sempre, la verità, è sempre attiva la stazione. Via, ma eri ascolto anche prima, stavo usando un altro apparecchio prima. Sì, solo che è una zona un po' tanto particolare, dunque ho provato a chiamare e non prendeva, qui appena sono riuscito a farmi sentire, dunque per quello non sono intervenuto, tanto non mi avreste ascoltato, ecco. No Antone, anche perché io uso leggermente un po' di squelch, tanto per non sentire questo fruscio continuo. Segnalini. Senti la timbrica rispetto a prima, se è diversa. Prima stavo utilizzando una Linco, adesso ho messo lo stesso mic con le stesse impostazioni su un CRT 9009, su un apparecchio di tipo diverso. La timbrica ha cambiato. Tantissima, questa la sento molto molto più presente, poi da parte mia, più presente, perfettamente bilanciata, una meraviglia la verità. Non è metallica, no, perché io, ti spiego, io certe volte mi metto sul 20, metto un baracchino nell'altra stanza con l'alimentatore e il registratore di quelli digitali col Vox. Praticamente come parlo qua mi registro e mi riascolto, però a me sembrano tutte uguali, cioè cambio radio, cambio con lo stesso mic, cambio radio, ma sembrano tutte uguali e timbriche, boh, cambia poco e niente all'orecchio. Conta che quell'apparecchietto c'è un altoparlantino che è come una moneta da un euro, forse anche più piccolo. Bisognerebbe ascoltare i file al computer, perché mi pare che registri in MP3. Ho capito come sono quella tipologia. Ma è una meraviglia, io ce l'ho in macchina ed è una meraviglia, ti sento non perfetto di più, non avrei toccato niente. E poi condizioni di condizioni di voce metallica, assolutamente niente, ti sento una meraviglia, la verità. Bella, presente, abbastanza prepotente, ma sotto controllo, ti sento benissimo. Sì, questo rispetto all'altro è un po' più spinto, l'altro ha circa 12 watt teorici, fissi però senza picchi, questo invece dovrebbe essere 8-10 watt di portante muta, però i picchi arrivano fino a 30 watt effettivi e non PEP, watt proprio reali, misurabili con qualsiasi rosmetro. Va bene, vediamo se è rientrato Antonello Pomponio. Antonello, ci sei? Quel trobbio non credo, aspetta un attimino che devo guardare una cosettina e arrivo. Aspetta Antonello, sento una modulazioncina tua un po'. È un po', cos'hai, un omologato in macchina? No, un vecchio Midland modello 77861, è vecchissimo, con un microfono dell'Astral amplificato a batteria. Sicuramente la batteria sarà scarica, di quelle ricaricabili, stasera la metto in carica. Ho qui poi l'antenna o la mini turbo, dunque pretese poche e niente alla fine. Le condizioni sono mie precarie. No vabbè, il casino sotto Antonio, perché lo sento sotto di te, tu sei 9 adesso e la propagazione di Santiago 6, c'è tutta una cozzaglia di segnali e segnalini, sono tanti, ma capito, non è un QRM o QRN, è proprio, sono segnalini uno sull'altro. E poi ti volevo chiedere Antonio, tu per l'ascolto che cosa avevi? Tu avevi il Texun ma era andato male, così è. E niente, cosa mi racconti di bello Marco? Aspetta Antonio, non hai copiato, no, ti volevo dire, tu avevi avuto il Texun, ma mi pare te l'avevo venduto aiuto io, ma poi cosa era andato, cosa è successo tempo dopo, era andato male, tu con cosa stai ricevendo l'HF? Allora, per l'HF c'è lo trasverter, poi invece il Texune è andato male, per quale motivo? L'ho portato anche a riparare, ma a quanto pare non era possibile, così mi avevano detto, e in poche parole cosa succedeva? Lo tenevo in ricezione e sicuramente durante le trasmissioni che io facevo con le radio, no? Sempre in 27, sicuramente troppo segnale ricevuto gli ha fatto partire non so quale circuito interno, dunque la ricezione non era più come prima, era un casino nero. E niente, e poi pian piano si è spento da solo, non riceveva più alla fine, perché lo tenevo sempre vicino agli altri radio durante la trasmissione. Io avevo quello di marca improponibile XH data, quello sta andando sempre, tipo il Texune più piccolo e tengo quello, non ho altro, per ricevere l'HF. E ti dirò che lo sto usando anche poco, ci ascolto più la 27 che non la banda HF. Bene, bene, bene. Antonello, sei rientrato? Antonello Pomponio. Antonello si assenta poco poco e poi sparisce tutta la sera. Io sto qui a Apollo, mi sentite? Gianni? Affermativo, ciao Marco, buonasera. Ciao Gian, ho sentito appena le scarichette, però siccome stavo regolando il volume, non so se sia dal potenziometro tra il volume o se sia da te. Buonasera, ben entrato, io sto usando un CRT 9009 e un microfono da palmo KPO, distanza 5-6 dita dal mic. Riprendi, c'è Antonello Deus in baramobile, c'era Antonello ma ce lo siamo perso. C'è il Pomponio, c'è. Magari le scariche che hai sentito sono dovute al PTT che sto usando poco, adesso vediamo, facciamo un controllo. Sì, dai, il microfono mi avevi detto che l'avevi acquistato da poco, l'altra radio non so se ce l'avevi già da tempo o è uno dei tuoi ultimi acquisti. No, questa ce l'ho da qualche anno, CRT 9009. Praticamente è quello un po' più performante, diciamo, dai, dei vari CRT, dei tre CRT, 30 watt modulati teorici, il microfono è questo, sì, quello KPO eccetera, l'ho provato su tanti apparati. Allora il bello già che avevo preso il cavetto, non so se te l'avevo detto, il cavetto adattatore da 6 pin a 4 poli, cioè da 6 poli a 4 poli. E questo cavetto l'avevo preso per un baracchino in particolare, non per il presidente, però alla fine è risultata la stessa piedinatura identica su tre president, quindi aspetta, questo cavetto adattatore va bene su 1, 2, 3, 4, su 5 apparati, io adesso questi 5 apparati che potevo usare unicamente col mic di serie, ci posso mettere MB più 5, ci posso mettere qualsiasi microfono, anche dinamico. Riprendi Gianni. E caspita, sei andato di lusso. Sei andato di lusso. No, la radio è buona, il suono è ottimo, il microfono sembra che stia facendo il suo sporco lavoro, dai. E la timbrica rispetto a quella tua conosciuta sembra molto, come si dice, ha quel tipo di timbrica che si usava anni fa nelle radio FM con suono compresso, però va benissimo, non è burrottosa, va benissimo, si sente che il microfono spinge, però non disturba, è gradevole, dai. E a metà è il mic, vediamo se metto, se si sente la televisione, ecco, mi allontano tutto il braccio, vedi un po', 1, 2, 3, sto parlando anche piano per non disturbare mamma. Non sento rumori molesti, dai. Bassina è nell'altra stanza. Antonello, riprendi per Gianni, lo profeta. Ma buonasera, se mi occupi, Barracuda da questa. Affermativo, ciao Andrea. Sì, sì, ti sento. Con una radio diversa rispetto agli ultimi collegamenti, non so cosa hai combinato. Comunque riesco a copiarti, dai, buonasera, ben entrato. Sono in barra mobile e dunque la condizione è questa, è dovuta ancora, diciamo, la modulazione. Tutto lì, comunque tutti e due forte e chiaro da parte mia. Sono all'entrata della Conad, sto usando un vecchio apparato, era mini turbo, dunque le condizioni mie sono quelle, colpa mia. Comunque tanto per salutarti, l'importante è quello. Non ci sono problemi, non sapevo che eri in BM, dai. Niente, comunque dai, ti ascolto bene, dai, c'è la radio un po' vaccata, non so se sia per colpa del microfono o per qualche altro motivo. Ho sentito un ingresso a gamba tesa, mi sembrava doppio. Ehi, dai, buonasera a tutti, doppio room. Ciao Gianni, ben entrato, ben sentito. C'era anche Antonello Pomponio, ma ad essere inciampato in qualche lattina. Ah, aspetta che volevo salutare Antonello. E beh, Antonello, come va? C'era già, mi copi? Sì, ti copio un po' saturo, sì, probabilmente è qualcosa attaccato, però già ti sento. Sono in macchina e per quello è così, dunque il microfono farà un po' cagare, la batteria è scarica, del resto niente. Piano piano, tutto bene, tutto bene. Già c'è sempre la stazione, che sono in macchina, dunque le condizioni mie sono queste. Comunque buonasera, ben sentito. Ehi Antonio, è un piacere sentirti dopo tanto tempo, avanti a chi tocca. Antonello, ci sei? Mi prendi tu Gianni, avanti. Veglia, bene meda. Per Marco, le senti ancora le scariche? Forse il PTT sporco, boh. No, adesso niente scariche, ma mi è venuto il dubbio che fosse il regolatore del volume qua, il potenziometro del volume, tanto questo lo uso meno. Scalda troppo il separato, cioè non troppo, però scalda abbastanza. Boh, non, c'è volte non mi fido, ho paura di fare saltare qualcosa. Va bene, quindi caspita, 5 apparati adesso recuperati con questo adattatore utile. Riprendi Gianni che vada bene. Va bene, dai. Che tipo, dopo mi direi che tipo di adattatore ha messo, che non stavo seguendo. Ho acceso adesso, quindi, che stavo canticchiando. A chi tocca, avanti, che io non ho fatto molto ascolto già. Riprendi tu così, fai girare tu, che non so chi ci sia. Io Marco, Antonello Barracuda in barra mobile, e poi Antonello Pompugno, non ho sentito, mi stava dicendo che era in onda sino a poco tempo fa. Anche io mio ho acceso 2 minuti fa. Avanti Antonello, se sei ancora all'ascolto. Barracuda, mi deve essere andato a fare la spesa, ha detto che era la Conad. Probabilmente è andato a fare la spesa, capito? Ah, mi sono distratto, allora quel passaggio mi è sfuggito. Non sapevo dovesse entrare a fare la spesa. E niente, Gianni, come mi ascolti? Ti ascolto bene, come al solito, bene. No, adesso Marco mi ha messo un po' il dubbio, vabbè, il LED del microfono è bello pimpante, quindi la batteria mi sembra in forma, dai, pensavo che fosse, si stesse scaricando la batteria dell'M95. Magari sì, quello lì è un po', magari, forse sì, un po' meno pimpante, però già va bene, la modulazione è chiara, capito? Magari è quello anche, perché tu arrivavi sì molto, ma molto più forte, secondo me. Adesso è un po' più bassa, ma va bene, si sente bene. Sì, sicuramente la batteria, per carità, si sarà anche un po' scaricata. Cioè il volume del mic è a metà. Guarda, adesso provo a tirarlo su. adesso è tutto la manetta, dimmi se cambia qualcosa. E adesso sei tu. Quindi mi consigli di lasciare la manetta? Ma per me è così da battaglia, dai. C'è stato un break avanti che ha chiamato Gianni. Ciao Eugenio, e allora, dove sei di bello? Cavagava, dai. Dopo una lunga gita, così è. Cavagava, dai. Già era una bella giornata oggi, già ci stava bene, dai, in giro. Avanti, Antonello, se ci sei, dai. Certo, ma vabbè, io sono un pochettino zitto perché ho difficoltà e gli altri mi ascoltano, è per quello. Dove sono parcheggiato in questo momento non fa. Parlate voi tranquilli, sicuramente una batteria che sta partendo. Boh, non lo so, va bene, dai, tanto è. Comunque è tratto Eugenio, lo rilanciaggiami così, lo saluta che so che sono amici. Ciao Eugenio, ti ascolto in mezzo al rumore di fondo, sicuramente sei con la nonfetta, non so se mi copri, salutoni e buonasera. Ma non lo sento, perché... Ciao a tutti! Ciao Giulio! Ciao, già, ciao! Ciao Marco, hai una radio favolosa, veramente bella! No, volevo sapere per curiosità se mi sentivo Antonello da Ursi. Antonello, mi senti? No, ma non è a Ursi Antonello, Giulio, è a Sassa. Ah, beh, allora non fa niente, dai. Come non detto, ci sentiamo, dai, ciao, ciao! A proposito, Gianni Lubrofetta, ho la sensazione che hai dei picchi leggermente negativi, non so se voi ve ne siete accorti, ma così mi segnala a me, dai. Comunque non fa niente, dai, ti saluto, vado a cenare, che sono già le 8, ci sentiamo, ciao ciao, prendi pure Gianni Lubrofetta. Ciao Giulio, buona serata e grazie per la dritta, adesso, adesso facciamo delle verifiche, dai, non si è ancora presentato questo tipo di problema, non so se gli altri hanno modo di verificare, boh, datemi il responso nel caso, ok? No, qua è il segnale fisso Gianni, qua non rivelo niente, non rilevo niente di anormale, il segnale è fisso qua, poi bisogna vedere se è il mio o il suo, non lo so, qua arrivi bene. No, scusa, no, probabilmente hai ragione tu Gianni, perché io vado con i LED, vado, per cui non sarà per quello, vabbè, non fa niente. Niente, come non detto, ciao a tutti, ciao Marco, ripeto, è una radio straordinariamente bella, ciao. Prego, prego, prego, prego, prego. Registrato, buonasera Giulio, peraltro ho cambiato microfono adesso, il problema è che questo c'ha i toni, e meglio l'MB più 4 almeno, così esce, così te lo tieni. Vabbè, mando avanti il break, avanti, che mi è sembrato Francesco, avanti. Buonasera Giulio, buonasera Marco, buonasera a Doppio Room e buonasera a Gianni, se c'è ancora. Giovanni Stanco dal Terzo Pettine, in cambio. Ciao Giovanni, scusa, ti avevo scambiato per coso Franco di Francesco D'Ausilo. Eia, Gianni, riprendi tu perché io ho difficoltà a sentire Eugenio, praticamente non l'ho sentito, ma è a caso in baramobile. Sta rientrando, sta rientrando, io già lo sento bene. Ciao Giovanni, mi hai sentito, cordialità anche a te. Avanti Eugenio. Eugenio non riprende, a chi tocca, avanti. Antonio, aiuto, fatti sentire. No, già, dai, devo andare a cenare, mi hanno già chiamato. Ci sentiamo, ciao, ciao, ciao a tutti. Salutoni, ciao Giovanni, ti ho appena sentito. Ci sentiamo, io chiudo e vado a cenare, dai. Ti prendi pure Giovanni. Ma buon appetito Giulio, un saluto a Eugenio se mi senti. Ricambio i saluti a Doppio Room. Scappa Giovanni, oggi ti sento bene, con che apparecchio stai uscendo? È solo lo stesso, ma gli ho cambiato il microfono. Sempre lo stesso. E che microfono gli hai messo? È sempre un amplificato, non lo so cosa sia, sinceramente parlando, non c'è scritto niente neanche. Intec, però non so cosa. Ma immagine è chiara, non è amplificata, però è chiara. Sì, è buono, qua è 9. È buono il segnale, vabbè, LED. Oh già, dimmi se devo abbassare i toni, perché qua con ogni apparecchio è diverso. Questo era MBP5, prima era il KPO da Palmo. Oh, va benissimo Marco, va benissimo così, la voce tua come verticale. Ah, quindi è brutta, la mia voce è brutta. E vai, vai, brutto. tutta la deduzione che hai fatto tu, io non ho detto nulla. Ciao Natalì, ti avevamo chiamato, forse stavi cenando verso le 7:30. Vabbè, riprendi voi che vado a bere di nuovo. Parlato assieme? Ho detto ciao Gianni. E io stavo salutando a te e qui siamo sovramodulati. Ciao Lattarino, buonasera. Ciao Gianni Ghezzu. Ciao Natalino e ciao Giovanni da Platamona. Quando, adesso siccome ci sono due Gianni, facciamo le dovute distinzioni giustamente, perché se chiamiamo Gianni magari diventiamo tutti e due, hanno un attesi tempo. Natalino con la voce, con la radio Bombardona, dai. Sì, adesso Bombardona. Sì, già bella carica di bassi, Natalì. Rispetto ad altre volte, sì, molto più carico di bassi. Davvero? Allora è proprio una bella radio maschia. Mascula! A mascula. Ho alzato il mic appena 7, così posso parlare con un filo di voce, che tanto è quello che mi rimane oggi, un filo di voce. Bene, vedo che qua i picchi sono buoni, va bene. Oh già, mi chiedevi prima che adattatore era, niente, io praticamente avevo vari apparati con l'attacco 6 pin, no? E senza un adattatore potevo usare solo il mic originale. Niente, l'ho ordinato al sito che mi ha dato il mic, perché a farmelo io voglia saltarmi addosso, è risultato compatibile con ben 5 apparati, cioè 5 apparati con l'attacco 6 pin, caso strano, la pidenatura era la stessa, e cioè pin 1 modulazione, pin 3 trasmissione, pin 5 la massa. Vabbè, ci è andato bene, dai, allora. Hai preso due piccioni con una fava. 5 piccioni con una fava, dai. Regalane una a me che non ne ho io, gatto, maledetto. Sì, Natali, baracchini volgari sono, mi vergogno che hanno gli apparati, sennò poi mi tira le orecchie Claudio, se li chiamo apparati, sono volgari baracchini, tutti uguali poi, c'è le funzioni di uno, c'è l'altro e viceversa. Vediamo se ha ripreso Antonello Pomponio o Antonello Di Ossi o entrambi, tutti e due assieme, io. E tutti ammontonati e non entra nessuno. Ciao Gianni Rubroffetta, a Gianni il doppio rumo lo chiamo Gianni Grido, così già mi capisce chi è. O mi chiami doppio rumo, number one. Antonello Di Ossi, vediamo un pochettino se c'è, o se ha scaricato la batteria della macchina, perché mi sembra strano che ci sia così, è strano, non l'avevo mai sentito così male, di modulazione. Ah, chi è Antonello? Era Saturno, aveva qualcosa attaccato oppure... aveva la batteria a scarica come ha detto lui. È vero, allora appena entrato si sentiva meno questa saturazione e man mano che ha modulato e almeno il mio orecchio è come se fosse peggiorata, ma forse lui ha pensato che si stesse scaricando la batteria, capito, no, della macchina o del microfono, se non lo so, se fosse quella della macchina che intendevo, quella del microfono, non so se mi copi la batteria del microfono. Ah, e allora mi sia la cola, devi dire e te la cambi. Esattamente. No, il bello è che sta qui è ricaricabile. E ce l'ho un po' qua sicuramente per quello. Confermo Antonio, si sente che se ne sta andando, non è chiara, è impastata. E quindi confermo le considerazioni che hanno fatto gli altri. Allora ragazzi, siccome adesso Giulio mi ha messo la pulce nell'orecchio, provate ad attenuare il mio segnale, attenuate, così vediamo se esistono questi, insomma, lo sgrivizzo, i picchi negativi. Siccome io ho un apparecchio simile, alle volte questi smitter a LED moduli e va in negativo lo smitter a LED, però non sono picchi negativi, è una particolarità che hanno questi apparecchi, questi smitter LCD, capito? Poi Gianni, se c'è la lancetta Gianni te lo può dare controllo, vai. No, per me è fisso il segnale, no, Già, te l'ho già detto, per me è fisso. Giulio appena appena c'aveva picchi positivi, ma appena appena. E tu invece ce l'avevi fisso. Capa, no, vabbè, adesso mi è venuta in mente l'opzione di attenuare il segnale per avere un teleconferma. Vabbè, comunque non era tutto a posto, dai, anche qua vedo la ghetta dello strumentino dello ZG che si muove. Vabbè, continuiamo ad andare così, dai. Avanti a chi tocca. Buonissimo, Gianni, confermo, falso allarme. Ti ho controllato con l'analogico, va bene, va benissimo, ciao. Di lusso. Grazie Giulio, me ne è levato un piccolo pensierino, dai. No, a parte gli scherzi. Grazie alla conferma. Più attenuate con l'analogico non ne segnava picchi negativi. Già. Comunque alla faccia della radio che dicono che ce la bombardona io, ma tu non scherzi. Aspetta che abbassi il volume del microfono, adesso lo rimetto a metà. Eia, sì Giulio, allora il 5005 lo fa più di altri apparati con lo smitter a cristalli liquidi, lo sai, c'ha questo sfarfallio, ti si spegne un LED e quindi lo interpreti come fossero picchi negativi, invece questo già lo fa di meno, il 9009 lo fa di meno e anche altri apparecchi. Natale, tu la modulazione mia passabile? Ma è fantastica, è veramente bella la tua modulazione. Proverò sui presidi, qua c'ho tutto il... Cos'è questo? Ah, tipo di mamma. C'ho tutto il... Come si dice? Porca, mi stavo bestemmiando. Tutto il divano imbandito di apparecchi, di microfoni, tutto un bordello, eh. È perché sei circondato. C'è Giovanni Stacco in parcheggio, fatelo entrare. Eccomi, non so se mi sente Natalino, e comunque se non mi sente ne approfitto per salutarlo. Buonasera. Buonasera Giovanni, già ti sento. Santiago 95, Radio 5 qua. Grazie. Cappa Giovanni, vedi un po', Marco da questa parte, ci arrivo almeno al terzo pettine, sì, guarda, vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5. Segnale 9 e radio 6, 4. Eia, bene. 4, visto, di scarsa qualità la modulazione, secondo me troppi acuti. Vediamo se metto il tono a 3, vabbè, non ne voglio far prove, basta. Mi arrivi molto bene, la voce molto bella, chiara, limpida, pulita. Vada a 2-4. Avanti Giovanni, a me come mi ascolti di segnale. Vai, parla, aspetta che mi avvicino però, che devo vedere bene. Vai, parla adesso. Guarda, avvicinati, metti l'occhio sopra lo smitter. 7-4, sì, se sta segnando bene. Santiago 7. Radio 4, sì. Vabbè. Mi sembra un po' strano. Gianni, ma tu sei liscio? Non funziona bene, io ho un coso, come cazzo lo chiami? Quest'ago che vedo che si ferma sul 7 e poi c'è l'altra linea da sotto che è sul 4, di più non ti posso sbagliare, però magari non è affidabile questo, io non ho strumentazione come saprai. E già va bene lo stesso, dai. Cosa Marco, non ho capito, ci sono liscio. Sai cos'è? Lui mi ha dato 9, però conta che questo ha 30 watt modulati, cioè portante muta, guarda, potrebbero essere 8, 10, però se faccio un fischio non mi viene. Allora mi correggo, siccome ero ancora vicino alla radio, ho visto bene, hai lo stesso segnale di Gianni Doppio Rum. Mi sono avvicinato, prima lo smitto il profilo, ed ero anche un po' assidia. Adesso mi sono avvicinando, ho visto che c'è lo stesso segnale di Gianni Doppio Rum. Giova, e io quanto ti arrivo lì? Tu sei 6 e radio superiore un po' al 3, però ti ripeto, cazzo, non fare affidamento questo smitter, perché io ti sento benissimo, chiaro e limpido. Lui misura anche la radio con quello di sotto, capito. La radio la devi dare a orecchio, Giovanni. Devi guardare il segnale e la radio la devi dare a orecchio. Come cazzo faccio a dirti? Ah, così è. Del segnale della radio. Ma chi non usa me? La radio non te la posso dare a orecchio. Io ti posso soltanto dire che ti sento molto bene. Quando è proprio perfetta la radio forte e gli dai 5, poi vai man mano a scalare, si fa così. Sapevo, io comunque il segnale tuo adesso lo, che ci sto proprio vicinissimo, sei in alto è 7 e giù è a 4. Oh Giovanni, Giovanni? Ti viene avanti, ti ascolto. Sì, praticamente tu da 5 a 1, 1 è la più brutta, 5 è la migliore, fai ascendere ottima, buona, passabile, scadente, pessima, capito? Ottima ovviamente 5, pessima 1, capito? Poi può influire la timbrica, il volume della modulazione, l'intelligibilità, così si dice, cioè la capibilità anche della modulazione rispetto, che ne so, al segnale basso, eccetera. Orecchiometro, dai. No, infatti non capivo. Non capivo cosa intendeva Natalino, poi praticamente con lo Smith, sì, segnali, praticamente i watt di sotto lui leggeva, dai. Positivo, li leggevo tutti e due, guardo dove si ferma l'ago, in alto ti do la lettura alta e poi ti do la lettura bassa. Che apparato era? Smith e la lancetta, no? Che apparato è, si può dire? Questo che ho io è un Midland 7001, 30 anni di radio. Che non mi ricordo che smitterà, se ce l'ha come il 3009 oppure diverso. Riprendi Gianni. La lancetta ce l'ha. Come Natali? La lancetta ce l'ha. Adesso cerco una foto su internet. È l'8001, guarda. È quel Midland più grande dell'Alan 48, che ha le bande laterali, c'ha tutto. Avanti, il profeta, riprendi tu. Eia, noia. Ero distratto, mi avete preso a una sconfinata. Noia. Cosa volevo dire? Ma Barracuda è ancora in onda? Sì? Sì, dovrò prendersi la battita del microfono, non so se è entrato dentro e uscito. Vediamo un po', Antonelli, sì. Antonello. Mi sa che è ancora dentro. Noia. Eugenio l'abbiamo perso, lo volevo salutare, sicuramente si è spostato dalla zona negativa e quindi non lo diciamo più. Cala, cala. Porca miseria, non c'è una foto decente. Comunque lo Smith, bene o male, l'ho visto. Ok. Ma lui la radio ti ha, vai va, ti capito l'hai? Al posto della radio. Siamo andato a Santiago Semi, Bari, e c'è di radio. Ti pare che possa arrivare a di radio? Sì, se sei QRM sotto, QRN propagazione. Prima era 6 la propagazione, mi. Antonello 9, sentivo sotto un bel segnale. E quindi anche io non li potevo dare proprio 5. Sta arrivando il caldo, per carità. Ne ho già le balle piene. Riprendete. Io poco fa parlavo con il 45 e ieri ho parlato con Catanzaro e con la Sicilia. Benissimo, bene, bene, bene. Loro mi sentivano bene a me e io bene a loro. È la propagazione, adesso comincia. Ma anche stasera, solo che in quel 45 c'erano questi cazzo di teste di cazzo che con l'eco non si capisce una parola di quel cazzo che dicono. I grandi modulatori. No, è volgare, cioè proprio non si capisce niente, capito? Non capisci niente. Colleghi due, Giovanni, sono tutti camionisti qui. Ma no, a me non mi piace. Sì, appena appena può anche andare bene, ma no, è bello sentire la persona pulita, limpida e chiara. Se vuoi discutere, vuoi dialogare, no? Ma loro lì lo fanno, il più potente riesce ad andare avanti, quello più basso non fa vita. Lo fanno per cose di potenza, si fanno fare gli apparecchi modificati. E chi è più potente passa, chi è meno potente rimane indietro. No, ma mi sentivano sia ieri che stasera, mi hanno sentito, mi hanno risposto, però cazzo non capisce a quello che ti dicono loro. perché io mi sono presentato, ho detto la regione davvero e arrivavo, però cazzo non capisci cosa dicono, c'è uno che sembra che stia ruttando, cosa cazzo, quello non è, penso io, è parlare al CB. E se non ti piace non c'è andare in quei canali, vai in altri canali, vai in FM, ce n'è anche lì, capito? In FM, in banda laterale. Sì, ho parlato anche in FM, mi pare la settimana scorsa con qualcuno, sì, ti ho parlato in FM, sempre in continente. Vabbè, dopo ti viene anche all'estero, se capita ti viene anche da parlare con l'estero. Va bene, va. Natalino, riprenditi la telecamera. Mi senti, parla più mia moglie che io, mi sovramodula. Perché ha la voce squillante, concetto? Già, c'ha dei picchi allucinanti questa cosa. Quando parla lì, da 40 se ne va a 100 watt. Adesso, Natalino, è l'unico che si fa sovramodulare dalla televisione. E adesso la televisione non c'è, però c'è la 50 che mi sovramodula se parla lì. Dico, farsi sovramodulare dalla televisione alla 50, sei l'unico qua. Cosa ci posso fare se mi mette la portante la 50? Oh, yeah. Scherzo naturalmente, amico. Ehi, al gioco. Pittina. E purtroppo comanda lì. E meno male che non sta pagando anche il cane, sennò guai. Io sono Rugani, va un acquisto di Sugani. Fruzzinoso, abbagliando me a me. Sì, è vero, Natalia. Certe volte si sente la TV, concetta che parla il cane che abbaia e non si capisce nulla. E succede una multa infernale. Tutto l'ambiente. Mi, ho trovato quel video, antico ruttificio, questi sono tolti dal rutto finale dei grandi moduratori, senti che bestie. È finito. A me mi piaceva quell'apparato che aveva Gigi Vulcano, lo sai quanto lo facevo girare io? La voce mia. Comunque Natalia, ti ricordi l'Omega Force? Già me lo ricordo, sì. Quello, te lo dico io, quel periodo delle telefonate, quello faceva TVI o comunque entrava nell'audio dei televisori, era un casino, era quello che faceva casino. E che fine ha fatto Marco? Vai cocuomani. L'avevo dato a Natalino, perciò faceva TVI. E lo fa tu vai tu. Ciao Claudio. Ciao ragazzi, ce l'ho bruciato tu e ci ho riaggiato allo stello, se no tu mi ci brucia tutto. Un abbraccio a tutti. Buon fine domenica, ciao. Ci hanno sovrappopolato e non c'è capito nulla. Vi saluto tutti quanti, dai. Ciao, alla prossima ragazzi, buon proseguimento. Ciao Giovanni. Una volta, ciao Giovanni, buonasera a tutti adesso. C'ho roba al fuoco, sto arrostendo, se no mi ci brucia tutto, c'è gente. Un abbraccio a tutti e buon fine domenica, ciao. Ciao Giovanni, ci sentiamo, avanti Natalì per il saluto. Carissimo, sto arrivando. Vieni Natalì, vieni, vieni. Carissimo, arrivo. Cangasciate giardina se può venire. Ciao, buon proseguo. Vedi il fumo da qua Claudio, si vede la colonna di fumo. Ciao Giovanni, buona serata e buon proseguimento. Ciao Giardino, ma detto mi inviti, vieni, io vado a me la fumo. Claudio, manda segnali di fumo. No, ma che, ti cambi a Milano arrivi. Diventa tipo Geminata in piazza Colonna Mariana. Beh, ne avevo voglia, le portate a Genova, che sono anche queste sardine e la fama. Ma grandi, belle. Avanti a chi tocca. Mi sembra che ci sia in parcheggio Antonello Barracuda, vediamo un po'. Antonello. Oh già. Eia. Ho visto, già mi faceva andare il foto e te le mando. Nel canale di Mario. C'è presente un pony, dici cavati, un pony, Già lo so, sì. L'ho visto la fotografia su internet. Sono umani davvero i cigani. Oh, yeah. Anche il preso a canario è una cosa allucinante. Ma vabbè sì, sono cattivi, però quello che c'è a mare preso a canario è buono, giuro, è bravissimo. Di un'intelligenza allucinante. Ma questo è pazzesco. È stata una fornacchia a bere dentro il recinto. Una zampata l'ha tagliata in due. Ehi, si è fatta a prete. In due. In due. Aspettate in due. Io ho visto una scena una volta. Questo qua stava buttando la mondezza e c'era una cornacchia, questo qui era con un pastore tedesco e gli ha detto prendila, tanto il cane è andata a morsicare la cornacchia si è alzata in volo, le si è buttata, è andata a un gambo e gli beccava il muso, gli ha fatto uscire tutto il sangue. Allucinante, in due, adesso non c'è il video, ha fatto un spaccato in due. Sono cani grossi sono. Quello lì esce buono in piedi in danza a pizzare un gambo. Per un uomo di Filippo c'è un calo, portiamo qua, sì, domani. La gente con un gambo vuole, la mano peggio, lasciate lì. Lasciatemi stare tranquillo, voglio passare una vecchiaia arrostendo, mangiando e bevendo, c'è meglio il culo il gambo. Eia. A che ore sono? Ma 8:30 sono già, io vi saluto, dai, statevi tutti bene, sono andato a portare a Tyson, perché mi ha ricordato Tyson quando ha parlato di Filippo. Sì, sono fuori, ma c'è un bel caldo ancora, bellissimo, sta bellissimo. Dai ragazzi, vi saluto, un abbraccio a tutti, vi saluto cordialmente a tutti e buon fine domenica, ci aggiorniamo domani. Vai Marco lì. Claudio, ci sentiamo, dai, buona cena, buona serata, buon tutto. Poi un giorno che è più libero il canale ti volevo chiedere qualcosa più su quella PKV verticale, ero curioso di avere qualche particolare in più. Ok, dai, ci sentiamo, ciao, buona serata, buon tutto. Vai Natalino. Ciao Claudio, non so se ho risolto con quell'antenna, mi dirai in seguito. Buona serata, buon tutto, vai, buon divertimento, alle prossime. No Tatalì, praticamente c'ho tutte le bande che vanno bene, tutte le varche perfette, 10, 15, 20, 80, le varche in 40 metri, non so cosa sia successo, non lo so, c'ho lo stazionario a 1000, la ricezione è favolosa, la ricezione è ottima, la trasmissione non c'è niente da accordare, niente da registrare, c'è qualcosa nella bobina, non lo so, 40 metri è piena di stazionari. Per il resto va bene Marco, un'antenna da 8,50 m, ti fa 5 bande, comprese anche le varche, va bene, deve avere spazio, fonde alta, robusta, è molto robusta, i materiali sono buoni, la piccata va doppio, c'ha 5 radiali da 3 quarti, non sottili da 3 quarti, quindi molto grossi, sono 80 cm, adesso però io quelli li lascio e preparo tutti gli spezzoni da 3 metri di filo, ne metterò una ventina, tutti legati e li butto tutti per terra, in modo che risuoni più, e poi vediamo questo problema dei 40, lo parlano con Marco, vediamo cosa può essere successo, che non ci sia un problema nella bobina, perché la bobina è unica per tutte le 5 bande, quindi non so, vabbè. Ho detto, vabbè, non so se mi hai sentito, Natali, facendo le prove con Gianfranco, i segnali sono buoni, considerando il fatto che Gianfranco è... siamo dentro Sassari, quindi i segnali che sono molto alti, poi Gianfranco usa 70-80 watt, quindi insomma, bisogna vedere. L'ho già provata in 10 metri, ho fatto il Brasile proprio ieri che l'ho più montata e sono arrivato 5-9 in verticale, quindi penso che vada bene. Ok, dai, vi saluto che mi stanno chiamando, che c'ho da sistemare fuori. Ciao ragazzi. Guarda che non sia un problema di radiali per i 40. Che ti disaccorda un problema di massa che ti disaccorda la bobina. Quello è interessante Natali, ci ho pensato anch'io perché non c'è altro accordo. Infatti adesso io cosa faccio? Tolgo tutti i radiali di nuovo, li pulisco bene, li metto bene inseriti perché può darsi che non stia toccando come deve toccare, e mi chiedi questo problema perché è impossibile, tutte le altre bande vanno bene, i 40 ce lo sono pieno stazionati. Quindi domani faccio un controllo, tanto è bassa, 2 metri a terra, perciò ci arrivo tranquillamente con la scalettina, senza bisogno di fare niente, il bello delle antenne qua montate è quello lì che ci può lavorare tranquillamente, in sicurezza, tranquillo e sereno. Va bene, grazie all'info, ma ci ho pensato, è sicuramente un problema di radiazione, sicuramente. Adesso domani controllo meglio, li tolgo tutti i radiali e faccio delle inversioni, boh, qua si è sbagliato qualcosa io. Ok, ciao a tutti, mi stanno chiamando, ciao, baci e abbracci a tutti, ciao ciao. Ciao, forse è un problema di altura. Bel concerto, Natali. Non si comprende nulla. Cosa, Natali, un problema? Di altezza da terra. Ma mi ha detto Marco di non sollevarla molto, un paio di metri. Anche Gianfranco ce l'ha così. Quelle verticali così lavorano un paio di metri a terra, Natali. Non hanno problemi di altezza, capito? Allora, questo è un problema di massa. Domani la controllo, eh. Limite, ti tengo informato e mi dai dell'info. Ciao, ragazzi. Vai, Marcolino, sempre in piedi, ciao. Ciao, Claudio, ciao, sì. Mi stavo guardando antenne della Econtenne vecchie, tipo la HF6, però questa è trappolata, c'è una trappola per ogni banda, a parte gli 80 metri che l'antenna lavora tutta fino in cima. È così, e poi anche i radiali sono con la bobina, là, non sono filari. Gianni c'è ancora, Gianni il profeta, vai. Ehi, sì, no, stavo ridendo, per l'aborto di Natalino non si comprende a nulla. Beh, andò per un cane gabbaggia, mi voglio dire papilla, perché l'hanno chiamata, l'hanno, mamma mia, me ne vado in campagna, boh. Va bene, dai, era... mi ha fatto ridere, d'accordo. Ciao Claudio, buona sardinata e niente, rilancio per doppio, avanti. Oh, Gianni è andato a portare il cane e forse mi sono dimenticato anche di salutare e stavo cercando queste antenne qua. No, è il cane che è stato a portare a Gianni. Sì, Gianni, Natalino, eccetera. Stavo leggendo sui forum, vabbè, tempo fa l'ho letto, no? E come alcuni radiatori siano un po' di parte. Per esempio, quando c'era questa HF6 delle contenne, no? 80 metri, 40, 30, 20, 15, eccetera. È una misera antenna alta 4,90 m, no? È corta, eh. Però fa un po' tutte le bande. Eccezionale, va benissimo perché era un prodotto italiano. Poi c'è la CP6 giapponese che grosso modo sempre 4,5 m, stesse bande, stessa fattura d'antenna, no? Trappolata, radiali caricati, no, una gagada, non serve a niente. Sui forum l'ho letto. Cioè alla fine cioè, lodano il prodotto italiano e schifano lo stesso prodotto giapponese che poi sembra la fotocopia quasi, non proprio identicissima, però siamo lì. Sì, perché i giapponesi copiano, quindi come può essere una cagata se l'hanno copiata, ma quella italiana. Sono di parte, dai. Però vabbè, poi guarda, c'ha lo stesso, il cappello capacitivo per ogni banda, quasi ogni banda. Vabbè, a me piaceva la CP6, almeno per ascoltare. D'altronde i MIDI-X li fai anche dalla macchina. Se c'è propagazione li fai anche dalla macchina, dalla barra mobile di X in bande amatoriali. Certo, lì i risultati sono limitati, però in condominio ho già VBD. Sicuramente quella di Claudio è simile, lui ha detto che ha solo una bobina però. O bobina o trappola che sia, strano però. Tutte quelle bande come le fa? Vabbè. Perché ci sono le interruzioni nella bobina, hai capito cos'è? E sono collegate ai radiali, sicuramente quello dei 40, io avrei fatto 4 radiali per i 40, proprio specifici, e vedrai che l'antenna va. Poi Natali, vabbè, io dico a te perché bene o male queste cose le conoscevi, la Eco 7 Plus, 7 più, era lo stesso multibanda trappolata, verticale, però era alta ben 7 metri, quindi molto più alta. Peccato che la Econtenne ha chiuso, non fa più niente queste cose qua, scomparsa e vabbè, ormai, pazienza. Infatti, io devo fare un diploma trappole, perché è troppo lungo per i 40, è meglio fare due trappole, e ci vogliono due pezzi da 20 cm di tubo da 4, da 40, da 40 mm. Oggi spero di riuscire a farmi il benedetto di quello per i 40, perché tutto unico non ce la faccio, che è troppo lungo. Ehi, sai chi aveva quell'antenna lì, la CP6? La prefettura. E siccome c'ha la prima parte dello stilo che è abbastanza lunghetta e le trappole sono più in alto e pesano le trappole, ogni vento che veniva a Sassari l'antenna piegata, di poco però si piegava lo stilo. E vabbè, già ne riprende, non mi ricordo più che ci è rimasto qua. Fai un po' l'appello, io fra poco chiudo e vado a bere. Riprendi Gianni. Ehi, siamo rimasti in tre, come quelli di Porta Sant'Antonio. Ci sono io, tu e Natalino, poi Barracuda no, forse è ancora a fare il compere. Claudio la sardinata, Gianni è andato a portare il cane e poi e tutte cose, dai. E niente, dai. Rilancio per Natalino. Ecco, riprendendo il discorso della prefettura, lì c'è il centro della protezione civile e ci lavorano quelli del CER, fanno le simulazioni, i radiamatori proprio della protezione civile, capito? Ed è proprio in prefettura il centro. Ah, quindi il CER esiste sempre come corpo, come si dice il termine, non mi viene il termine tecnico, Natalino. CER, si chiama CER, Centro Emergenza Radio, ed è dei radioamatori proprio. Quindi la mossa di Draghi è... Ah, vabbè, ma quello è diverso, no? Io ricordavo il CER, S-E-R, Servizio Emergenza Radio, quello di 40 anni fa. Questo è un altro, è diverso. Perché quello del CER era il nostro. Invece, infatti, c'eravamo iscritti io, Walter, un sacco di gente lì al CER. C'è ancora il tesserino qua. Invece il CER è quello dei radioamatori, quelli fanno servizio di protezione civile, proprio se succedono calamità, qualche cosa, allora intervengono loro. Me ne ricordo un'altra sigla, FIR, cos'era? Firenze, Imola, Roma, FIR. La FIR CB, dove c'era il CER praticamente, capito? Era la federazione, no? Sì, mi ricordo le cavalcate. Si fa anni 80, si mettevano là sul braccio la fascia, no? con la sigla o FIR o SER, adesso non mi ricordo, o l'uno o l'altro, o tutte e due, con quei belli apparecchi spalleggiabili e le antenne lunghe. Adesso quelle cose lì le fanno i radioamatori, le facevano, adesso non so se le fanno ancora. Io la cavalcata pochissimi anni fa, tipo 3 insomma, vedevo queste persone in abiti comuni, con sti PMR, però come giravano l'angolo, pronto, non ti sento, parla più forte, non si sentivano a 100 metri, praticamente anche con la calca della gente, non lo so. E perché devono usare le bande normali col ponte, però questi non erano radioamatori, sembravano persone comuni dell'organizzazione lì, della, come si chiama, Proloco, che cacchio ne so io. Ma dico, se usi il PMR almeno usa lo potenziato, no? 4 watt, usa il Baobao, almeno ti senti a 100 metri. Vai Gianni. Ma non li puoi usare se sono potenziati, perché se no ci vuole la patente, evidentemente non hanno voluto pagare più. I radioamatori si arrangiano così. Però se usano più di mezzo watt e con l'antenna rimovibile sono passibili. Sì, quello lo so, tanto che alla cavalcata non è che sanno fermare quando c'è la processione, vostro movimento lì a fermare ogni singolo operatore, a controllargli se il portatile c'è a 4 watt, se l'antenna si svita, non lo fanno. Di una parte della maggioranza. Vuol dire che stanno facendo gioco sbaglio, perché prima dovevano pagare i radioamatori, quindi non ne hanno problemi. Perché usano i ponti e quindi si sentono per forza. Hanno il braccino corto, d'altronde chissà cosa tutto costa un po' organizzare e tra trasporti e tutto. Ah, signori, comunque io sto toccando qua dietro, è bollente, è rovente l'apparecchio, io stacco. Vi saluto tutti, ciao Gianni, Natalino, i superstiti rimasti, se ce ne sono, e gli ascoltoni, ci sentiamo, ciao, buonanotte a tutti. Ciao Marco, alle prossime, avanti Gianni. Ciao Marco, dai, anche io mi unisco a... ai saluti di Marco, dai, chiudo la baracca pure io, dai, ci sentiamo prossimamente, ok, dai, grazie alla chiacchierata a chi è rimasto le orecchiette pelose, dai, buona serata a tutti, ciao Natalino e ciao a tutti, ciao ciao. Ciao Gianni, alle prossime, di noi, grazie per la chiacchierata, ci sentiamo alle prossime, salutoni a tutti. In un mondo... Scusate, no, vi volevo dire che, senza scherzi, questo è il 9009, però mi sta sul culo questo apparato, perché ho messo le mani sulle alette di raffreddamento e sono così calde da non poter tenere la mano sopra. Ti brucia, cioè scalda troppo sta roba. Bisognerebbe mettere una ventola. Detto ciò, buonanotte a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao, i finali scaldano. Capito? Devono scaldare. Ma l'anima, così mi si sciolgono le saldature del finale pure. Una pessima notizia. Ma tu metti un avvento, ma dissipatore ne ha. Sì, sì, c'ha tutta la letta grande che prende tutta la larghezza, però una ventola mi sa che ce l'aggiungo, a costo di legarla a scorcia a sputo o a spago. Capito Natali? Quelle fascette di morti, le fascette. Ogni giorno. Ciao ciao a tutti, ciao. Ciao ciao. Grazie per la chiacchierata. Anch'io, quello.